Allora, rieccoci tornati in diretta, quasi mezzogiorno, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Dunque, noi siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Fabio Menzione. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno. Per l'esattezza. Ah, è così. Ora, noi in apertura abbiamo già annunciato, insomma, che oggi, domani e dopodomani c'è questo appuntamento, le udienze per la Cassazione relative al procedimento nei confronti di poliziotti, personale medico e penitenziario resosi protagonista degli atti di violenza, di tortura, insomma, nella caserma di Bolzaneto nel corso del GIA del 2001. Cerchiamo, avvocato, di fare un po' il punto della situazione. Siamo in attesa, insomma, di capire anche un po' meglio, no, come si svolgeranno queste udienze, ma insomma, con la sentenza della Corte d'Appello del 2010 si è detto, insomma, che appunto sono responsabili civilmente tutti i 44 imputati. I reati sono stati prescritti, non essendoci appunto il reato di tortura in Italia, però insomma quella sentenza ha ribaltato il verdetto di primo grado. Peraltro ci sono 7 imputati che sono anche responsabili da un punto di vista penale. Ecco, possiamo far chiarezza già su questo punto, avvocato? Sì, purtroppo i tempi hanno giocato a favore dei responsabili penali dell'intera vicenda di Bolzaneto. Qua siamo all'ultimo atto, probabilmente, e come dire, di fronte a una ricostruzione che io non credo venga rimessa in discussione dalla Cassazione, una ricostruzione storica sulle responsabilità, però siamo purtroppo a constatare che la maggior parte dei reati è andata in prescrizione, non ultimo per il fatto che per transitare da Genova a Roma il fascicolo ci ha messo anni invece che i soliti 2 o 3 mesi, e anche lì si potrebbe indagare su alcune responsabilità specifiche. Però il punto è che residuano le responsabilità civili e resideranno anche le responsabilità disciplinari, si spera, nei confronti di questi agenti di vari corpi. Naturalmente siamo appena agli esordi, stamattina c'era la relazione del relatore delegato, poi vedremo l'accusa su che cosa punta e come motiva. E poi parleremo noi delle parti civili, parti offese. Il secondo e il terzo giorno saranno dedicate probabilmente ai difensori. Sarà interessante soprattutto vedere l'accusa pubblica e il procuratore generale come si muove. C'è un aspetto molto importante che dovrebbe essere sollevato nuovamente qui, come nel processo Diaz, la questione di costituzionalità dell'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento. Fu rispettata la questione nel processo Diaz, potrebbe essere accolta invece in questo processo Bolzaneto, dove è ancor più stringente, perché ricordiamocelo, i giovani erano ristretti a Bolzaneto, erano arrestati e quindi erano in condizioni di assoluta intangibilità, e invece furono sottoposti a un trattamento che, se non era tortura, e a volte lo è stato, era sicuramente inumano e degradante. Dunque è aperta ancora anche un'altra questione molto importante, che è quella dei risarcimenti. Cioè, per la Diaz ha già anticipato, insomma, il Ministero dell'Interno. Rispetto alle parti civili, insomma, di Bolzaneto, al momento però i risarcimenti non sono ancora iniziati. Ci sono anzi delle diatribe in merito a quali ministeri, insomma, devono appunto contribuire a questi risarcimenti, e oltretutto non si capisce nemmeno bene se i singoli imputati giudicati colpevoli saranno poi effettivamente chiamati a rispondere in solido, insomma, delle loro violenze. C'è appunto questa leggina, l'articolo 2 bis della legge misure urgenti in materia di sicurezza, che prevede che ci sia una copertura delle spese da parte dello Stato e quindi anche di tutti i cittadini. Quindi è probabile anche che gli imputati, anche se riconosciuti appunto responsabili civili e quindi che devono risarcire, non vengano sostanzialmente nemmeno intaccati da questo punto di vista. Beh sì, la questione sussiste e non è affatto secondaria, perché se rimane a gola, per dir così, insopportabile il fatto che non rispondano dal punto di vista disciplinare, per meno piace che non rispondano nemmeno dal punto di vista civilistico, vale a dire che non siano chiamati a metter mano al proprio portafoglio. Comunque sia, sicuramente vi è una responsabilità naturalmente dello Stato, vale a dire dei vari ministeri coinvolti, che è chiamata a che è chiamato a risarcire lo Stato assieme ai suoi cosiddetti servitori. Devo dire che molti dei ricorsi in Cassazione di cui si discute oggi puntano proprio sulla questione civilistica, il che la dice lunga come agli occhi degli stessi imputati la faccenda morale, per dir così, che sta dietro a questi reati assolutamente sembri non riguardarli e tutto venga risolto indicativamente in una questione civile, cosa che ci sembra abbastanza insopportabile, per dir così. Assolutamente, ben più che semplificatorio, quasi una vera e propria liquidazione, insomma, di questa vicenda, se così andrà effettivamente. Nel frattempo però c'è anche la Corte di Strasburgo, no, che ha dichiarato ammissibili i ricorsi presentati da una ventina di persone per accertare proprio se in questi processi vi sia stata adeguatezza, insomma, delle pene inflitte, e quindi insomma per aprile oltretutto lo Stato italiano avrebbe dovuto fornire delle risposte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si hanno notizie in proposito? No, per il momento non si ha notizie di che cosa sia stato presentato da parte dello Stato per esaudire le richieste che gli provenivano dall'Alta Corte di Strasburgo. Staremo a vedere, naturalmente è una vicenda, per dir così, a latere rispetto al processo di oggi, ma è di estremo interesse il fatto che non sia stata bloccata nel filtro che esiste per questi casi davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo, ma sia stata ammessa in quanto questione, quindi, per così dire, come diciamo noi giuristi, il fumo, vale a dire di una giusta richiesta, sicuramente c'è. D'accordo, allora avvocato, noi per il momento la ringraziamo per il suo intervento. Possiamo aggiornarci per i prossimi giorni quando il quadro sarà più chiaro. D'accordo, grazie mille. Buona giornata a lei.